moi, mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Sound check, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. Buona domenica a tutti gli appassionati di musica di Radio 24. Questo è il Sound Check, la prova del suono direttamente dal Groovemaster Studio. Buon pomeriggio a tutti voi da Gegé Telesforo e buon pomeriggio e ben ritrovato anche a Francesco Tromba, il nostro comunicatore multimediale, che sarà pronto nella seconda parte del Sound Check, quella che inizierà alle 19:15, ad accogliere nel nostro studio un artista formidabile, un grandissimo insegnante di canto, forse fra i più accreditati per quanto riguarda l'improvvisazione vocale. 30 anni di duro insegnamento, come diceva Mario Marenco lì alla Berklee College of Music di Boston, e vi sto parlando di Bob Stoloff. Sì, mi ritengo un privilegiato perché sarò nello stesso studio insieme a due fra i più grandi scatman forse anche della storia. Ti ringrazio. Beh, questo non è vero, però lui senz'altro è il più importante didatta per l'improvvisazione vocale, tant'è vero che dopo 30 anni alla Berklee College ha lasciato la scuola e oggi fa tournée in giro per il mondo con le sue masterclass. Sì, praticamente gira tutto il mondo, va anche, per dire, in Giappone, in Africa, ovunque ci sia bisogno di un insegnamento vocale, lui è lì. È vero, fa masterclass in giro per il mondo, non fa concerti e non fa dischi, ma io mi sono procurato delle piccole perle che voglio presentare agli amici di Radio 24 per ascoltare la voce di Bob Stoloff in azione con il suo skit e il suo funambolico sillabare. Sì, io ho anche visto alcuni video su YouTube di alcune sue lezioni, sono tutte a parte molto interessanti. Comunque riesce anche a creare l'atmosfera giusta fra i suoi alunni, perché riesce proprio a metterli tutti a proprio agio. Bene, sarà con lui anche la nostra collega, la nostra amica Stefania Patanè, anche lei una brava cantante, una brava insegnante di canto, e quindi ci racconteranno che cosa stanno combinando insieme. Ma tutto questo a partire dalle 19:15 qui al Sound Check. Ma veniamo alla puntata che stiamo per affrontare. Musicalmente io ho un'idea, vorrei presentare gli album secondo noi proprio da non perdere fra quelli pubblicati in questi primi 4 mesi del 2015. Quindi chiudiamo il quadrimestre. Il quadrimestre, bravo. E quindi non vogliamo dare, non diamo la pagella, ma segnaliamo gli album che vanno acquistati assolutamente. Ok, dai, sono d'accordo, partiamo. Ma tu hai tirato giù anche gli squilli di tromba? Certo, ce li ho pronti. Bene, ce li abbiamo pronti, e quindi possiamo annunciare anche i concerti e gli appuntamenti live più interessanti nel nostro paese e all'estero. Allora direi di dare il via però con due pubblicazioni, non voglio dire recenti, ma quasi appena sfornate, anzi secondo me in Italia non sono ancora arrivate. Questo non lo so, perché ormai io non seguo quasi le uscite italiane, cioè sei internazionale. Allora diamo il via con il talento di The Perfect Animal, l'animale perfetto, la voce, la precisione, l'intonazione, il calore, il feeling è naturalmente di una cantante sofisticata come Becca Stevens. Grandissima cantante. Io sono un po' innamorato. Devo dire che platonicamente, inizialmente però, io avevo qualche dubbio su questo amore, però adesso quasi lo condivido. Vabbè, adesso mi devo anche ingelosire. Alla fine bisogna vedere cosa sceglierà, no? Thinking About You, e anche noi ti pensiamo. Becca Stevens Band apre il Sound Check. Da non perdere, Perfect Animal, questo è il titolo del nuovo album. Dream About You, una composizione di Frank Ocean per l'arrangiamento di Becca Stevens Band. Thinking About You, Perfect Animal, il titolo di questo album da non perdere per gustare e conoscere il talento di una grande interprete contemporanea americana. E da Becca Stevens a un altro album, secondo noi molto interessante. Certo, ci spostiamo musicalmente su un versante inglese. In realtà devo farti un appunto. Dimmi. In realtà questo disco ancora non è uscito, uscirà a maggio. Ma noi ce l'abbiamo però. Sì, sì, noi abbiamo alcuni pezzi, però non abbiamo tutto l'album. Però noi possiamo già dirlo che è da non perdere. Sicuramente no? È il più atteso a Londra in questo periodo. E allora, visto che ieri abbiamo parlato della scena londinese con Davide Shorty Shortino collegato con noi via Skype, possiamo annunciare nuovamente che il nuovo album Love Plus War di Quabs, quindi con il brano che lo rappresenta, che è Perfect Ruin, è da non perdere. Sì, è anche stato registrato negli Abbey Road Studio, quelli proprio dei Beatles. Quindi anche tantissimi artisti sono in attesa. Quindi che vuoi dire? Che avendolo registrato lì c'è anche un marchio di garanzia per il sound? Beh, immagino di sì, no? E penso proprio di sì. Quabs con Perfect Ruin qui al Soundcheck di Radio 24. How long can lovers stand? Soundcheck. Il suono della musica. Voglio solo sapere se hai comprato il biglietto. Eh sì, l'ho comprato appena è stata annunciata già questa data, ero proprio lì pronto a cliccare sull'acquisto. Bene, tu devi sapere che io ho visto il concerto di D'Angelo a Los Angeles un paio di anni fa e già proponeva dal vivo i brani presenti in questa recente pubblicazione intitolata Black Messiah Album, come dire, che ha sorpreso tutti, intanto perché c'è stata una gestazione di 14 anni. Sì, anche perché è uscito proprio così, da un giorno all'altro. Sì, tutti lo aspettavano e poi improvvisamente D'Angelo ha pubblicato l'album Black Messiah, dal quale abbiamo ascoltato con i suoi The Vanguard Sugar Daddy. E allora attenzione, segnatevi queste date perché D'Angelo sta per arrivare in Italia. Non è un concerto imminente, quindi avete tutto il tempo per poter prenotare il vostro posto all'Auditorium Parco della Musica, credo il 6 di luglio, giusto? Sì, il 6 di luglio e poi a Roma. Il 7 invece sarà a Milano all'Estate Market Sound. E quindi tu hai già comprato il biglietto per Roma? Sì, vi consiglio di comprarlo al più presto. Subito, mi hanno detto che è già quasi esaurita la sala. Eh sì. Perché lo fanno all'aperto, no? Nell'arena, anfiteatro, sì, nella cavia. Ok, D'Angelo arriva in Italia con The Vanguard e anche questo, The Black Messiah, è uno degli album che non potete perdere se siete degli appassionati di black music e soprattutto se seguite le vicende di questo grande personaggio del New Soul. Da D'Angelo invece a Kendrick Lamar, il passo è breve. Sì, è l'altro album di cui si sta parlando più in assoluto dal nuovo anno. Altro album di riferimento per la discografia americana, D'Angelo inserito nel repertorio R&B, invece quello di Kendrick Lamar nel repertorio rap su iTunes. L'album si intitola To Pimp a Butterfly e non so se ci saranno dei concerti e degli spettacoli di Kendrick Lamar con la sua band anche in Italia. Per ora non c'è nulla di annunciato, io spero di sì perché comunque questo disco, questo lavoro è veramente dal mio punto di vista fantastico, anche se ho letto recensioni, sto leggendo tutte le recensioni su questo disco e ci sono due partiti. c'è chi dice che è un capolavoro assoluto e poi c'è anche chi cerca di minimizzarlo. E questo succede sempre per le grandissime produzioni. Sì, magari non vengono capite subito, comunque vengono tacciate di essere, appunto, di schiacciare l'occhio all'ascoltatore. A noi è piaciuto subito, pur non essendo un vero appassionato di rap, trovo questo album favoloso, una grandissima produzione. E poi quando si ascolta un brano come You Ain't Gotta Lie, Mama Said, Kendrick Lamar, non puoi fare altro che andarlo a comprare. Eh sì, io l'ho comprato subito. Anch'io. I can see your insecurities written all on your face. So predictable your words, I know what you're gonna say. Who you fooling or you assuming you could just come and hang with the homies, but your love for realness ain't the same. Circus acts only attract those that entertain. Small talk, we know that it's all talk. We live in the laugh factory every time they mention your name. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Semplicemente con il nome della leader, ovvero Nubian Brandon, ma la band è Nubian Twist, e così si intitola anche l'album, il primo album di questa band inglese che vi stiamo proponendo qui al Soundcheck di Radio 24. Anche questo un disco molto interessante da non perdere, perché i Nubian Twist coniugano la loro passione per il soul, l'R&B, con quel pizzico di spezie giamaicane che non guasta. Sì, c'è un po' di tutto dentro il loro sound, trip hop, hip hop, reggae, anche un po' molto fusion comunque. E c'è anche il rap. Ecco, in molti pensavano più o meno una decina, 15 anni fa, che il rap poteva essere un fenomeno passeggero, e invece si è consolidato nel tempo, tant'è vero che anche molte band italiane vendono tanti dischi e sono molto seguite. Sì, come quelli che pensavano magari che i computer non sarebbero durati più di tanto. Quindi, l'evoluzione della specie, mio caro Francesco Tromba. Quindi da non perdere anche questo album intitolato Nubian Twist, che non so se si trova fisicamente, però senz'altro via internet potete procacciarvi le tracce realizzate da questa nuova band inglese. Allora, verifichiamo, Francesco, i concerti più interessanti nel nostro paese la prossima settimana. Sì, questa sera al Bico di Milano ci sarà Scott Matthew, sempre questa sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma ci sarà Fiorella Mannoia, che sarà anche il 28 a Salerno al Teatro Augusteo, il 30 al Teatro Europa Auditorium di Bologna. Lunedì invece il 27 al Pala Florio di Bari ci sarà Carmen Consoli, continua il suo tour per i palazzetti, e poi il 28 sarà al Pala Partenope di Napoli e il 30 al Pala Tupparello di Acireale. Passiamo un pochettino al jazz. Martedì 28 ci sarà Ron Carter al Museo del Violino di Cremona. Che bello! Il 29 Paolo Freso insieme a Paolino Dalla Porta al Teatro Comunale di Carpi. Giovedì 30 John Scofield al Museo del Violino di Cremona, anche lui. Questi, diciamo, sono i primi appuntamenti. Magari diamo anche il 30 Diane Shure al Teatro Guglielmi di Massa, i Quinto Rigo insieme a Roberto Gatto sempre il 30 al Teatro Comunale Russi di provincia di Ravenna. Ecco, questi concerti più interessanti per Francesco Tromba da non perdere nel nostro paese la prossima settimana. E da poco si è esibito nel nostro paese anche Marcus Miller, tra l'altro con un bellissimo concerto affollatissimo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, per presentare il nuovo repertorio, quello tratto dal nuovo album intitolato Afrodisia. E anche Marcus Miller in questa composizione dal sapore africano comunque inserisce degli elementi di rap, con la partecipazione del comunicatore sonoro Motion Worker. Marcus Miller al Soundcheck di Radio 24. Thank you. Soundcheck, il suono della musica. Beh, come volevasi dimostrare con la bella stagione, con l'arrivo della primavera, con la stagione primavera-estate arrivano i concerti e si riattiva un po' la macchina dello spettacolo anche nel nostro paese. Quindi ci sono altre date da non perdere in Italia con protagonisti tantissimi artisti. Ad esempio il primo di maggio ovviamente ci saranno, a parte il concertone a Roma, ci sarà anche il controconcerto a Taranto, dove si esibiranno Vinicio Capossela, Paola Turci, Diodato, Mamma Marias e i Tre Allegri Ragazzi Morti. Ecco, ma perché anche il controconcerto? Che significa? Nel senso che è alternativo appunto a quello. Alternativo, sì, a quello, sì. Solo per quello è contro. Per quello. Sì. Sempre l'1 di maggio ci sarà Gold Panda al Goa di Roma, musica elettronica. Sempre l'1 di maggio al Blue Note di Milano ci sarà John Scofield nella sua, penso, ultima versione italiana. Hai visto? Il 1 di maggio è la festa dei lavoratori, ma i musicisti lavorano. Eh sì, è un assurdo questo. È perché i musicisti lavorano quando gli altri sono in vacanza. Sì, non funziona, ci sono, così, non ci sono feste per i musicisti. Quindi John Scofield il 1 maggio al Blue Note. Sì, esatto. Sabato 2 Bud Spencer Blues Explosion ad Arsena, nel locale d'Arsena di Perugia. Maceo Parker sempre il 2 al Blue Note di Milano. Ambrosia Kim Musier al Teatro Forma di Bari sempre il 2 di maggio. Molto bene. Questo è quello che vedremo in Italia. Tanta musica in Italia, e naturalmente noi non garantiamo poi sull'effettiva realizzazione dei concerti, possiamo solo annunciarli perché queste sono le informazioni che riceviamo. Sì, anche perché ormai si potrebbe annullare un concerto anche proprio il giorno stesso, magari. No, perché qualcuno mi ha scritto: tu hai annunciato il concerto, poi non c'è stato, mica è colpa nostra. Beh, come era successo ad esempio un po' di tempo fa al concerto di Sam Smith, dopo che gente aveva preso il biglietto magari in mesi prima, il giorno stesso lui aveva la polmonite e non riuscì a cantare, quindi era nulla. Allora, un altro album da non perdere, appena pubblicato, sì, quindi vi stiamo raccontando gli album più interessanti di questo primo quadrimestre 2015, si intitola Rise, il brano è di Fiona Apple, per presentarvi l'arte e il talento di questa vocalist americana con grande esperienza, viene dal musical, si chiama Shayna Steele, il brano è Paperback. Hunger hurts, but starving, it works when it calls. Too much to love, though, though, though, though. Da da da, oh, oh. La splendida Shayna Steele con Paper Bag dall'album nuovissimo intitolato Rise. Anche lei ha fatto dei bei concerti in Italia e in Europa e tornerà prestissimo nel nostro paese per la stagione estiva. E siamo in chiusura, mio caro Francesco, ricordandovi che alle 19:15 il nostro ospite sarà Bob Stoloff per parlare di vocalità. Sì, a proposito di vocalità, c'è qualcuno che ha vinto il Jazz It Awards per il quinto anno di fila? Oh mamma mia, sì, allora fammi una cosa, approfitto per ringraziare tutti i lettori di Jazz It, questa rivista di riferimento per il jazz italiano, che anche quest'anno, come dire, mi hanno dato lustro. Ti hanno dato credito. Mi hanno dato credito, quindi li ringrazio tutti. Hai preso ben 1320 voti. Potremmo proporre come sindaco. La cosa imbarazzante è che Gregory Porter ne ha presi meno di me. Sì, tutti in realtà i vocalist ne hanno presi meno di te, vedo. I numeri. Solo fortuna, è fortuna, dai. Ti vogliono bene, dai. Sì, grazie a tutti i lettori di Jazz It, che tra l'altro spero di incontrare prossimamente, perché visto che è iniziata la stagione dei concerti, anch'io sono costretto a muovermi con grande piacere sempre. Quindi posso dare degli appuntamenti? Sì. In anticipo, intanto mi vado a divertire con due masterclass il 5 di maggio alla Scuola di Musica St. Louis a Roma, importantissima, e poi il 6 di maggio mi sposto invece a Sassari per una masterclass con tutti i giovani vocalist sardi. Sì, all'associazione La Voce in Musica. Alla Voce in Musica. Avrai Sassari. Tempo anche di un bagno, magari. Sì, e poi naturalmente partono i concerti. Credo di avere il primo appuntamento importante al Festival Jazz di Vicenza con il l'organ trio di Max Ionata, con Amedeo Ariano e Alberto Gurrisi all'organo, e poi che sono? Ah, poi inizio la tournée di Sound Zero con il nuovo progetto proprio dalla mia città, e sono contento di tornare al teatro Umberto Giordano, che io frequentavo da bambino e che finalmente posso calcare da artista. Calcare il palcoscenico dell'Umberto Giordano il 16 maggio. E mi dicevano l'hanno anche riaperto, diciamo, recentemente. Sì, sì, pare sia bellissimo, non vedo l'ora, sono anche molto emozionato proprio di dare il via alla tournée lì dalla mia città, e poi mi sposto al Blue Note di Milano anch'io. Tra l'altro è un sabato, quindi faremo il programma da Milano direttamente il 23 di maggio. Grande. Vabbè, dai. Ma c'è tempo anche per parlarne. Chiudiamo l'appuntamento di oggi con un altro grandissimo disco. Stiamo presentando quelli che secondo noi sono gli album di riferimento di questo primo quadrimestre 2015. L'album si intitola Didi Spader, si ha come protagonista Didi Bridgewater, che sarà anche in Italia la prossima settimana. Il 2 di maggio la troverete al Teatro Alighieri di Ravenna. Ecco, e noi avremo Didi nostra ospite prestissimo. Grandissimo. È una promessa. L'album è da non perdere, dedicato a New Orleans, e infatti viene coinvolta la Big Band diretta da Irving Mayfield, la New Orleans Big Band, per Didi Bridgewater, che chiude questa prima parte del soundcheck con Congo Square. Ci risentiamo più tardi qui su Radio 24 con Francesco Tromba e la straordinaria partecipazione di Bob Stoloff. Check one, two, mic check one, two, mic. Microphone check, check one, two. Soundcheck, il suono della musica. Di DJ Telesforo. Pronti per la seconda parte del soundcheck di Radio 24? Buonasera a tutti voi da Gigi Telesforo, buonasera anche a Francesco Tromba. Buonasera a tutti. E sono felicissimo, lo abbiamo annunciato, sono felicissimo di ospitare qui nel Groove Master Studio per questa seconda parte del soundcheck un grande maestro, un formidabile musicista, polistrumentista, che viene molto spesso in Italia per dar vita a delle masterclass molto seguite. Vi stiamo parlando, come posso definirlo, la voce in persona, l'uomo che ha codificato il linguaggio musicale dell'improvvisazione vocale. Il grande maestro dello scalpo. Il grande maestro Bob Stoloff. Welcome at the Groovemaster Studio for the soundcheck, Bob. Thank you for inviting me. Yeah, è un grandissimo piacere vederti, e voglio anche salutare Stefania Patanè, cantante e insegnante di musica anche lei in Italia, che molto spesso invita per le sue masterclass nella sua scuola proprio il maestro Stoloff, giusto? Grazie, ciao a tutti, grazie per averci invitati. Allora, direi, Francesco, di fare una presentazione velocissima del maestro Stoloff per far capire ai nostri amici con chi abbiamo a che fare oggi. Sì, allora, vocalist, polistrumentista, insegnante e maestro di scat. È stato per 28 anni insegnante della Berklee School of Music di Boston, una delle dei più importanti college musicali americani. Si è esibito anche in diversi festival insieme a Bobby McFerrin, ed è stato uno dei polistrumentisti più attivi sulla scena di Boston negli anni 80. Poi ha iniziato ad insegnare e a divulgare le sue tecniche vocali. È considerato uno dei più grandi conoscitori e maestri, appunto, dello scat. Ha anche scritto dei libri teorizzando i diversi metodi di approccio per improvvisazione vocale. Il suo ultimo libro si chiama Rhythmania. Ecco, allora, Bob Stoloff, so you here, and what's for you the vocal improvisation? What it is for me, it's a way of expressing yourself instrumentally, but using your voice. Ecco, è un modo per poter esprimere la tua musicalità, ma usando la voce. I think that right now it's very important for a vocalist to be a musician at the same time. È molto importante per un vocalist essere anche un musicista allo stesso tempo. Yes, I agree. And there are a lot of musicianship skills that vocalists need, and that's why many of them are going to music schools more than ever now. Ecco, e più di un tempo c'è bisogno proprio per i vocalists di poter apprendere il linguaggio della musica. So what do you do when you do your master class? Well, the reason why we started the school was because I wanted to teach my instravocal approach to vocal improvisation. Ecco, io voglio insegnare il mio approccio strumentale vocale. So a lot of the school is based on improvising, using your voice like an instrument, and this is, of course, means taking the experience that I had playing a lot of different instruments and translating that to the voice so that singers are able to articulate like instrumentalists. Ecco, quello che lui fa nelle masterclass è cercare di spiegare agli studenti tutta la sua esperienza come musicista, prima di tutto, esperienza che dagli strumenti poi ha riportato nell'uso della voce, quindi la tecnica vocale che poi nel jazz è riconosciuta come scat. I know very well what scat is, but you want to explain what scat is to our audience? Vuoi spiegare che cos'è lo scat? Yes, I'm not sure why they call it scat singing, but it started at the turn of the century. Probably Louis Armstrong is credited for the first time, they say. In the studio, yeah. Yeah, he lost the lyrics to heebie-jeebies and started to sing. But what he was doing, as many people followed him, like Ella Fitzgerald and Sarah Vaughan and all these great Mel Torme, is singing like the instrument, either the one that they played or emulating an instrument from the big bands that were so popular then. Ecco, lo scat è quella tecnica vocale che in studio di registrazione è stata riportata per la prima volta da Louis Armstrong. La leggenda racconta che Louis Armstrong perse il testo di EBGB e quindi improvvisò il testo facendo lo scat. Una tecnica vocale che poi da Louis Armstrong è andata avanti, è stata portata da Ella Fitzgerald nel periodo della swing era, Sarah Vaughan, insomma, grandissimo, c'è stata una grandissima evoluzione. So the human voice has a fantastic evolution right now. Yes, and the only way to simulate musical instruments, of course, is to create syllables. Since we don't really sound like a trumpet or a drum set, we try to be as close as we can. So scat singing is a language of syllables. Allora, lo scat singing è il linguaggio delle sillabe, perché chi propone lo scat non deve simulare, fare l'imitazione del suono dello strumento, ma esprimersi con la voce sillabando parole senza senso. So we talk about Ella Fitzgerald. Is very important. Very. She was my biggest influence when I was growing up. Ecco, è stata anche per lui la più grande influenza, e io lo dico spesso, prima o poi Papa Francesco dovrà avviare il processo di beatificazione per Ella Fitzgerald, che qui arriva al soundcheck con Jersey Bounce. Ounce by ounce the Jersey Bounce put you right in the swing. That Jersey Bounce, it'll make you swing. Give me that jazzy bounce. Ella Fitzgerald, protagonista del soundcheck, con nostro ospite il maestro Bob Stoloff, il più grande didatta di improvvisazione vocale in questo momento in giro per il mondo. Lo fa da oltre 30 anni, i suoi metodi sono i più venduti in assoluto. So, you like your work, eh? You like I love my work. Gli piace tantissimo molto. Il suo lavoro, ecco, ed è sempre in giro, gira tutto il mondo, forse più di un musicista. So you are always around, you travel a lot doing your master class and teaching. How do you feel? So you know that you have a responsibility for the contemporary vocalist. Sai yes. che hai una responsabilità. Yes. How do you feel? I feel like an emissary to the vocal community of the world. And being at Berkeley for so many years, I had that community come to me from all the countries, but now I get to visit those countries and get to see their culture and to work with them in their own environment, which is so much more interesting and exciting for me. Eh sì, molto eccitante, perché una volta lui insegnava alla Berklee College of Music a Boston ed era raggiunto da numerosissimi vocalist che volevano apprendere le nozioni. Adesso invece che ha lasciato la Berklee è lui che si muove in giro per il mondo. So you have your own network right now, yes. Doing your master class. Yes, it's mostly Europe and South America, and of course we are interested in perhaps visiting Africa someday, maybe going to Australia. Wherever there's vocal music going on is where I want to be. So that's why you don't perform too much, because you are so busy doing your master class. I prefer to teach. It excites me, and I love it much more than performing. I've been there, done that. It was enjoyable. I loved performing with some of the groups I did, and I did many things in the classical, jazz, pop, rock, funk, yeah. As a drummer, flautist, bass player, you know, many, many, and I'm just done with that. Sì, ha fatto tante performance in passato, ma adesso è troppo impegnato con le masterclass e quindi preferisce e trova grandissimi stimoli facendo le sue lezioni in giro per il mondo. Ho una domanda. I have a question. Don't you miss to be a musician? Performing? Yeah. Recording new music. Non ti manca essere un performer e registrare nuova musica? No, I don't miss it at all, because when I do a masterclass, I do perform for the people, and it's a much more relaxed experience, and I get to explain while I'm performing. I can stop and say, this is how I did this. This is what you would practice if you want to do this. And that, to me, is the better kind of performing. Ecco, non gli manca fare performance per il pubblico, ma lo fa quotidianamente quando fa le masterclass con persone che lo seguono e che gli vogliono tanto bene. Allora, but I wanna present Bob Stoloff in questa versione del tema classico dei Flintstones, il famoso cartone animato, che poi è diventato quasi un piccolo standard di jazz, quindi The Flintstones by Bob Stoloff qua al soundcheck di Radio 24. Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern Stone Age family. From the down of bedrock, they're a patron and a history. Let's ride with the family down the street, through the courtesy of friends to be. When you're with the Flintstones, have a yabba dabba doo da time. Soundcheck, il suono della musica. Ebbene sì, gli appassionati di musica avranno riconosciuto il volo del calabrone, ma qui il calabrone era interpretato dalla voce unica di Bob Stoloff, questa composizione scritta da Korsakov, un brano sul quale si sono cimentati musicisti proprio per mettersi alla prova, da violinisti a trombettisti, ma qui con la voce non l'avevo mai sentito. This is the first time I can hear the flight of the bumblebee from a vocalist. How you can do it? It's actually quite easy. Brass players learn, as I did. I studied many years, double tonguing and triple tonguing. So you spend many hours going triple tonguing. To me, you see it's so easy, but I spent many, many, many hours training. As a trumpet player. Esatto, perché lui è un trombettista e quindi facendo doppiette, triplette, terzine, via dicendo, poi ha applicato la tecnica tipica dei musicisti alla sua vocalità. But I think that for a contemporary vocalist and musician, I think it's very important the sense of humor. Credo che il senso dello humor, especially if you want to be a scat singer, è importante avere il senso dello humor. Quanto è stato importante nel jazz? How important is a sense of humor in jazz music? I think it's totally important, especially for scat singing, because it is amusing, it's funny, it's humorous. It's a great way to perform, because you can the audience really think it's funny. They usually laugh even if you're doing a serious scat solo. The sound of the syllables makes people smile, and they really enjoy it. So I like to take advantage of that and pretend that I'm talking to them sometimes, and you know, go out and have conversations and then give them the microphone, see if they respond, and they just love this. Eh sì, è molto divertente per il pubblico sentire un cantante che propone la sua musicalità in sillabe, ed è molto importante per la musica perché è un modo per poter comunicare nel miglior modo possibile e trasmettere la propria passione. E dei cantanti, dei vocalist eccezionali che hanno utilizzato molto spesso il senso dello humor sono stati proprio dei grandi maestri. And I'm talking about the John Hendricks, Dave Lambert and Annie Ross. Io so che tu hai studiato molto la loro lezione facendo sing songs of Basie, no? So you study a lot Hendrix, Lambert and Ross, their work. Very much, yes. Ella Fitzgerald and John Hendricks and they were my major influences. I fell in love with them, even though I was a classical trumpet player studying and playing in orchestras. I always had this love for listening to those people sing jazz, and I really didn't sing until I was much later, 25 years old. Eh sì, sono stati importantissimi anche per lui, da Ella Fitzgerald a John Hendricks, insomma i grandi maestri dello scherzo e della vocalità, e si apprende naturalmente ascoltando molta musica. I think it's very important that you have to listen a lot of music. Yes. Assolutamente. Eccoli qui, Poppity Pop. Do you know this song by Slim Gaillard? In this version, Hendrix, Lambert and Ross? If you play it, I would probably recognize it, but I'm not sure. I do it right now. Okay. Pop, pop, pop, pop, pop, gold motorcycle, hitting on one. Pop, pop, pop, pop, gold motorcycle, hitting on two. Pop, pop, pop, pop, gold motorcycle, hitting on one. Pop, pop, pop, pop, gold motorcycle, hitting on two. Pop, pop. Pop, pop. Pop, pop. Pop, pop. Pop, pop. Pop, pop. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, dal repertorio, dal songbook di Jerry Mulligan, Walking Shoes, nella versione dell'incredibile vocalist Mel Tormé, che purtroppo le nuove generazioni non conoscono molto bene, ma sono sicuro che il maestro Bob Stoloff, che è nostro ospite, adora Mel Tormé. You love Mel Tormé. I love him probably because, not only because he has this beautiful velvet voice. Non per la sua voce vellutata. But he's also a fellow drummer and quite an expert on the drums, and the way he scats is the way a drummer scats, with a lot of rhythm, a lot of accents. And he's also has this gifted voice, so he's the perfect scat singer. Eh sì, è lo scat singer perfetto perché ha una voce bellissima, vellutata, ma anche perché ha studiato batteria, quindi nel suo scat singing si sentono tutti i riferimenti ritmici tipici di un batterista. I'm very happy to see you, and I hope to see you maybe when you do a masterclass, maybe next time here in Italy. Quando farà una prossima masterclass sarà un piacere per me andarlo a seguire. C'è sempre da imparare nella musica, non si smette mai di studiare, e quindi voglio chiedere a Stefania Patanè, che anche lei è nostra ospite, quando ci sarà la prossima masterclass in Italia di Bob Stoloff? È l'appuntamento conclusivo di un corso annuale che è iniziato a novembre, sono 5 weekend e l'ultimo weekend sarà a maggio, 8, 9 e 10, e il 9 ci sarà anche il concerto finale, e vi annunceremo presto la location, dove si sentiranno questi studenti che sono spesso cantanti professionisti, perché le sue masterclass sono frequentatissime, che realizzeranno delle cose molto particolari che lui sta facendo, evolvendo molto il circle singing e il jazz choir, oltre che tutta una serie di solisti che canteranno una serie di standard. What's the circle singing? Circle singing is the new popular way of community singing, groups like choirs or even just strangers meeting. Bobby McFerrin started this when he would have people come up on stage and he would give parts and they would you know, be able to enjoy improvisation instantly. So you give parts in real time? Well, my version of it, I have them create the parts. So after we have a day of learning techniques and instrovocal techniques, how to imitate some bass lines, drum parts, mm-hmm. trumpet articulations, then what we do is create the music. I prefer having them create it. Ecco, sì, Circle Song è una tecnica, è un approccio allo studio creato da Bobby McFerrin. Lui sta sperimentando il suo, praticamente un gruppo di cantanti e di vocalist si cimentano nell'eseguire varie parti per creare così proprio delle sezioni, ed è quello che fa Bob Stoloff con un nuovo approccio, dà proprio delle parti ritmiche a creare proprio delle sezioni di batteria, contrabbasso, strumenti a fiato, tutto fatto esclusivamente con la voce. Grazie a Bob Stoloff, grazie a Stefania Patanè per la partecipazione. Dimmi, Stefania. Volevo solo aggiungere che il corso si tiene all'Live Music School a Roma. Ecco, ci sono dei riferimenti internet? Assolutamente sì, è www.imusicschoolrome.com. Grazie Bob Stoloff, thank you very much. Noi ci risentiamo sabato prossimo per il soundcheck. E anzi, faccio una cosa, Stefania. Vorrei suonare una cosa che avete fatto insieme proprio da una tua pubblicazione discografica, credo di quanti anni fa? È uscita 2 anni fa, nel 2013. Ho avuto l'onore di avere Bob come special guest in questo disco e abbiamo cantato un brano a cappella in duo. Eccolo qui, On Green Dolphin Street, qui al Soundcheck di Radio 24, per chiudere questo appuntamento e questo incontro con Bob Stoloff e Stefania Patanè. Grazie a tutti voi, ci risentiamo sabato prossimo, tromba. Sì, a sabato prossimo, grazie a tutti. La ranne